paurano di indossare sempre una collana di sorrisi. Sarai luccichio vibrante nelle notti estive, lascia portare l'aria in sacca, infine gli spruzzi sugli scogli, i sorrisi attraverseranno il tempo per scomodare poeti più sensibili, le loro parole vivranno e sgorgheranno emozioni nuove nel cuore di chi avrai saputo sfiorare l'anima. Quali sono i fiori giusti da regalare ad una ragazza felice? Quali le parole adatte nell'invito di un ballo mascherato? Ma quanto è profondo il vuoto fra due sorrisi finti? Quanto costa ad un bagliaccio con la morte nel cuore dire si va in scena, na, na, allegria, non ti senti soddisfatta e ti arrabbi quando ne capisci il motivo, poi piangi se largisci il tuo sorriso come la luna rischiari il percorso dei viandanti. Pianto a te non sono più solitari, na, na, na, na. Ma quanto è profondo il vuoto, i tuoi sorrisi, i tuoi veri denti hanno un senso, no? Dimmelo tu, mille maschere tutti contenti, non ci pensi ma non la senti, non prevesce nel tuo inconscio, metti broncio, il pensiero sconcio, cancelli tutto e sinceramente. Quando ne capisci il motivo, poi piangi se largisci il tuo sorriso come la luna rischiari il percorso dei viandanti che a fianco a te non sono più solitari.